La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera, oggi la prima volta ha per ospite un esordio, l'inizio di una carriera artistica preso proprio nel momento in cui questo accade. L'ospite di oggi è infatti al suo primo album, al suo inizio, anche se, come avrete modo di capire, il lavoro alle spalle è stato lungo. Allora, per iniziare vi facciamo ascoltare un brano dell'artista che ospiteremo nel corso di questa puntata, che si chiama Chiara Vidonis, e il brano che stiamo per ascoltare si chiama Quando odiavo Roma. Non dovrei, a quanto dice qualcuno, rinnegare quello che ora ho. Ma come posso non considerare tutto il tempo perso, però? Tutto il tempo perso, però? Sempre ascoltando quello stesso qualcuno, ringraziare è logico. Essere grati è una questione di buon senso e rispetto. Di buon senso e rispetto. E dunque questo è un estratto di Quando odiavo Roma, un brano dell'album Tutto il resto non so dove, della cantautrice triestina Chiara Vidonis, un album che sancisce un ottimo inizio e che è stato accolto con grande entusiasmo anche dalla critica musicale. Guarda, io sono davvero soddisfatta per come questo disco è stato accolto dalla cosiddetta critica, diciamo, ma anche proprio dalle persone che hanno apprezzato, da semplici ascoltatori, se così possiamo chiamarli, visto che comunque direi più che altro sono proprio il motore di tutto, le persone che poi ti ascoltano. Insomma, ho raccolto soddisfazioni in entrambe le sfere, sia quella della critica sia quella del pubblico, quindi sono davvero contenta, felice proprio. Ecco, quanto hai dovuto lavorare per arrivare a questo esordio, chiamiamolo così? Un bel po', perché diciamo che mi sono presa tutto il tempo di cui avevo bisogno, perché non avevo delle scadenze, non avevo qualcosa da rispettare per l'uscita del disco, quindi diciamo che se consideriamo la scrittura, la scelta, insomma, degli arrangiamenti, la produzione, tutto dall'inizio a quando il disco poi è uscito, il tutto è stato fatto nell'arco di 5 anni. Quindi moltissimo tempo. Sì, sì. Sì, rispetto, diciamo, sì, ai tempi canonici a cui normalmente siamo abituati, cioè proprio c'è stata molta scrittura, si sente molto, insomma, questo. Ma mi fa piacere, io sono una persona un po' lenta di mio, non sono una persona frenetica o che deve fare le cose per forza in tempi veloci, mi prendo i miei tempi, che vuol dire che spesso ho bisogno di maturare consapevolezze, e nel mio caso ci ho messo un po' di tempo a capire qual era effettivamente la direzione che volevo prendere con la scrittura. Quindi non ho voluto, ho eliminato anche tanto, no? Non ho messo tutto nel disco, tutto quello che ovviamente in 5 anni c'è stato a livello di scrittura. Ho cercato di mettere quello che per me era più significativo e che aveva un senso all'interno di un primo disco. Volevo che anche tra 20 anni potermi sentire fiera del primo disco. Ma in effetti è un disco che tra l'altro ha, proprio si vede che allora c'è un percorso lungo, perché ha una diversa espressione pezzo per pezzo, cioè insomma. Ma invece questa, ti dirò, è la parte più istintiva sicuramente del disco, perché io devo dire che il disco in questo rispecchia molto come sono io, non mi sono mai sentita parte di un movimento, di una di un flusso, diciamo, stilistico, quel che è. Perché per me scrivere canzoni è davvero mettere tutto quello che elaboro, che capita a me o che posso vedere che succede al mondo al di fuori di me, però non ha di per sé una linea così rigida, no? nel seguire la scrittura, nello sviluppo di determinati argomenti, è sempre tutto molto libero, quindi forse effettivamente la grande diversità di generi che c'è all'interno del disco è proprio perché il tema che ho trattato in ogni canzone ha deciso per me, ha sì. deciso di prendere una sua scelta, una scelta proprio, una direzione per come è stato scritto. Tu credi sia immaginare l'equilibrio su cui mi poso, tu credi questo è il contrario, tra i fili di vento del mio istinto, mi vedi che nuoto fra mille volti sconosciuti, tu trovami davvero. Di Chiara Vidonis è dunque la storia di un percorso artistico preso praticamente un attimo dopo la nascita, un percorso che nonostante segua tracce alternative rispetto al mercato discografico normale sta andando molto veloce e avendo grandi riscontri. Adesso ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale e la Formula 1 che finisce. Il moto che finisce, il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio. E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Siamo una squadra fortissimi. La prima volta a cura di Cristina Carpinelli. Oggi l'ospite è Chiara Vidonis, cantautrice all'esordio con il disco Tutto il resto non so dove, cantautrice, chitarra e voce, 11 brani di musica davvero interessante che confermano di fatto l'esistenza di tutta una generazione di artisti trentenni che sta emergendo in Italia grazie anche alla possibilità di condividere i propri percorsi tramite le nuove tecnologie, il web, che sta dimostrando davvero dove sta il merito, l'estro, la capacità e la voglia di essere artisti. Questa che ascoltate e comprendi l'odio. E intanto fuori qualcuno mente e dopo piange, ma non lo fa davanti a te. Mm. sei un'artista triestina. Volevo chiederti quanto conta Trieste sulla tua scrittura, sulla tua musica. Guarda, moltissimo sicuramente, perché amo la follia, la mia città, però io vivo a Roma da 9 anni e devo Quindi dire è che nato tutto a Roma. Sì, esatto. Guarda, se può esserci un inizio, sicuramente l'inizio è stato a Roma. E ti dico se può esserci un inizio, perché credo comunque che si è sempre parte di un percorso di vita che non inizia e non finisce in qualche modo, no? È tutto un flusso continuo di esperienze che vanno a sovrapporsi a quelle che precedentemente hai fatto. Quindi sicuramente nel disco c'è tanto Trieste, perché Trieste è dentro di me, è proprio sono io. Però c'è tantissima Roma, perché effettivamente tutto è nato e è stato definito a Roma. Ecco, Trieste è anche la città forse degli affetti, quelli, come dire, primordiali, comunque la famiglia, insomma, tutto quello che ti riguarda più nell'intimo. Che tipo di famiglia hai, che tipo di storia hai tu alle spalle? Come potrei descrivertela? Non so, diciamo che ho una famiglia abbastanza nella norma, ecco, sono molto legata, ecco, ai miei affetti a Trieste, non sono mai scappata dalla mia città. Però volevo semplicemente trovare delle esperienze diverse, strade diverse, sai, dentro dei 20 anni si fa fare queste cose. Ma per dire, quando tu hai iniziato, no, a scrivere, a comporre, probabilmente a casa i primi ad ascoltarti sono stati loro, no? Ecco, volevo sapere un po' com'era la tua storia all'interno del nido, ecco, così, prima di partire. Ma i miei mi raccontano che io ho sempre cantato, quando ero piccola facevo questi spettacolini, però senza pubblico, perché ero un po' riservata, però mi vedevano che mi mettevo magari in un angolino lì, che facevo qualcosa che poteva sembrare una sorta di primordiale concerto. E quindi io ho sempre avuto sta cosa di cantare. Poi ho iniziato a suonare la chitarra presto, avevo 9 anni. E l'hai scelto tu di suonare la chitarra o ti è stato un po'... Ma è un po' capitato, sai, perché mio fratello, che è più grande di me di un po' di anni, suona un po' di tutto, lui è il vero musicista serio della famiglia, diciamo, e aveva questa chitarra in casa che io ho preso e ho iniziato a strimpellare. È stato un po' un amore abbastanza istintivo, perché devo dirti, tante volte ci penso ma non mi ricordo neanche esattamente quando è nato. Cioè, io mi ricordo di me con una chitarra in mano sempre. Da sempre, da quando ho effettivamente coscienza di me. E quindi tu di fatto le canzoni le scrivi con la chitarra, il tuo strumento è la chitarra? Sì, lo è, che è, diciamo, croce delizia, perché effettivamente è anche un limite, nel senso che io non è che sono una chitarrista così virtuosa, e sono anche in questo molto istintiva. Però sì, ho sempre scritto e continuo a scrivere con la chitarra. E quando componi sei da sola o ti piace invece magari... Sola, possibilmente sola nell'arco dei 10 chilometri. Sì, mi mette molto in imbarazzo anche l'idea che qualcuno possa sentire quello che sto facendo nella fase embrionale, no? Mi piace, ma sono una persona abbastanza solitaria in generale, quindi sicuramente quando creo, quando... ho bisogno di avere la mia tranquillità, devo essere sola, sì. Ecco, è introdotto anche un tema che riguarda proprio la lingua usata, no? Tu sei una, diciamo, normalmente i percorsi normali sono, si inizia a scrivere in inglese e poi ci si affranca, diciamo, dall'inglese, si ha il coraggio di scrivere in italiano, perché l'italiano di fatto ti espone, no? è la tua lingua, e con l'inglese un po' c'è la copertina di Linus, per cui diciamo. Tu però sei partita subito con l'italiano, quindi secondo me hai lavorato e ci credi molto sui tuoi testi. Guarda, io ti dirò, la verità è che proprio quando ho iniziato, le prime cose che ho scritto, e quindi parlo veramente, non so, 20 anni fa forse, e erano in inglese, quindi ho un paio di canzoni ancora che ogni tanto suonicchio e che non suonerò mai davanti a nessuno, neanche sotto tortura, però erano, insomma, in inglese, un inglese rudimentale. E poi ho capito che però... questa cosa mi limitava molto, non riuscivo ad esprimermi in maniera completa, a me piace molto l'italiano come lingua, e gli artisti che più ammiro effettivamente sono quelli che riescono a coniugare la poesia, insomma, della lingua italiana con la crudezza anche del linguaggio parlato, però ho capito subito, insomma, che la via era quella dell'italiano per me. È la cosa che più mi rappresenta, anche perché do una grande importanza ai testi, e con questo intendo dire che mi piace riuscire ad esprimermi nel migliore dei modi attraverso i miei testi, e per farlo devo per forza usare la lingua che più in cui sto più comoda, che è l'italiano sicuramente. Io volevo chiederti anche una cosa relativa alle serate e ai concerti. Intanto volevo chiederti com'è, perché probabilmente adesso sta anche crescendo il pubblico attorno, quindi com'è la sensazione quando entri, quando sali sul palco, che cosa provi? Non lo so, non mi pongo mai troppo il pensiero del pubblico, ecco, questo ti devo dire sinceramente, anche in questo forse sono un po' solitaria nel modo in cui vivo il palco. Mi piace l'emozione, mi piace il tipo di sensazione che mi dà proprio il palco in sé, il fatto di poter finalmente liberarmi anche in qualche maniera di questa mia creatura che è il primo disco, però non mi preoccupo troppo, ecco, del pubblico. Mi piace dopo, quando finisco il concerto, sentire che magari qualcuno ha la voglia di venire a chiedermi delle cose, ad approfondire, a conoscermi. Questa è una cosa che mi stupisce, perché tendo sempre a pensare di non meritarmela, no? Fino in fondo. Però è una sensazione bella che mi dà fiducia innanzitutto, grande energia, e poi mi permette anche di distaccarmi sempre più dal disco. Ed è una sensazione bellissima, questa del distacco. E anche noi siamo giunti al momento del distacco, siamo ai saluti finali, vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento è per domenica prossima, sempre attorno alle 23, ci potete riascoltare sul sito della radio e su Facebook, ci trovate digitando La Prima Volta. Buon inizio di settimana a tutti, da Cristina Carpinelli. Che mai avrò? Possiamo fare un gioco, amore, se ti va. Ogni mio peccato è un soldo per la salvezza della tua anima. È una perversione funzionale continuare a volersi bene facendosi del male. Prendi tutto quello che ho tu, prendilo poi brucialo. Prendi tutto quello che ho solo per il gusto di togliermelo. Dipingo la mia stanza di verde lilla, così poi non ripenso ai tuoi occhi passati di qua. Ti voglio fare un dono, vita mia, se ti va. Le mie vene azzurre vuote sono un omaggio alla tua vanità.